questo ragazzo che mi arriva sempre in ritardo. Ma guarda, veramente una vergogna. Proprio sul nessuno filo mi apre. Di lana, sul filo di lana. Nessuno buonasera. Mi apre. Buonasera Gabriele Vasquez. Buonasera, buonasera. Come va? Tutto bene. Hai visto molti film stasera e stasettimana? Abbastanza. Bene. Allora, aspetta che mi sto perdendo, ricomincio da capo. Allora, bene, parliamo di cinema, cellulite e cellulari con Gabriele Vasquez. Allora, cosa hai visto questa settimana? Il film della settimana, eh? Allora, è il film della settimana. Vediamo un attimo, scusa. Il film della settimana non c'è. In che senso? No, il film della settimana, cioè il film bello di... Adesso li guardo un attimo l'elenco. Ah, proprio perché non sai... Dai, non mi ricordo a memoria tutti quanti. Ah, Prince of Persia. No, Notte Folla. Ma l'hai visto Notte Folla a Manhattan? Ho visto Notte Folla a Manhattan. Ma è carino, da vedere? Carino. Niente di che. Ma cominciamo da Notte... Anzi, scusa. Adesso cominciamo da Notte Folla a Manhattan. Ma comunque ho visto Puzzo della Riscossa. Hai visto Puzzo della Riscossa? Ho visto Puzzo della Riscossa. Un cartoon? No, live action. Ah, sì. Ma cominciamo da Notte Folla. Ma sì. Aiuto Vampiro, l'hai visto? Non è un'uscita tecnica, cioè si intende per uscita tecnica quando una casa di produzione fa uscire un film in pochissime sale con il solo davanti scopo... al microfono Vasquez, se no non si sente. In pochissime sale con il solo scopo di favorire poi l'uscita in DVD e di non farlo andare direttamente in DVD. Ho capito. Quindi quando è un'uscita tecnica non lo fanno vedere alla stampa. Beh, c'è Salma. Lo so, lo vedo. C'è la mia preferita, anche se è piccolina, ma tutte le cose al posto. Allora, invece, vabbè, andiamo dritti per Notte Folle a Manhattan. Notte Folle a Manhattan è un film con Steve Carell e Tina Fey. Allora, Steve Carell e Tina Fey sono due comici americani molto molto in voga, ma in America, qui in Italia sono meno noti. Un po' di più, magari Steve Carell l'avete visto perché ha fatto altri film ed è più visto. Lei, Tina Fey, è difficile, a meno che non seguite da vicino le cose americane. Loro sono molto bravi, molto quotati. Lui è uscito, sono entrambi usciti dalla televisione, lui con The Office, lei con 30 Rock, se non sbaglio, e ha fatto anche il Saturday Night Live. E li hanno messi insieme in questo Notte Folle a Manhattan. Ve lo dico subito, il film non è male, però purtroppo nell'edizione italiana, appena il doppiaggio, appena l'adattamento delle battute, un po' le cose si perdono. Però il film ha veramente un gran ritmo. Allora, che film è Notte Folle a Manhattan? Appartiene a quel grandissimo filone di film che raccontano la notte della metropoli, cioè il fatto che di notte la metropoli è diversa. È come Fuori orario di Martin Scorsese, Cuba Libre, I guerrieri della notte, che ti raccontano uno stesso luogo che di giorno vive di certi valori, vive di certe persone, di notte è completamente diverso, cambiano le figure tipiche, i poliziotti sono tutti corrotti di notte, ci sono solo poliziotti corrotti, nessuno ti aiuta, le donne sono solo tentatrici, è proprio un altro modo di vivendi. La cosa carina di Notte Folle a Manhattan è che traduce questo immaginario che quasi sempre nei film appartiene a film drammatici, thriller, lo traduce nella commedia. Loro sono una coppia di coniugi sposati con figli che vivono a New York, però nella parte non si dice qual è, però sembrerebbe tipo Brooklyn, quella lontana da Manhattan. E siccome il loro matrimonio è un po' in crisi, decidono di regalarsi una notte di tutta vita a Manhattan, nel ristorante super esclusivo della città, super bello, super costoso. Arrivano, non hanno prenotato, e già all'ingresso quello che li accoglie un po' li screzia per il fatto che neanche hanno prenotato in un posto del genere. Ma stiamo scherzando? Esatto, cioè voi potete trovare tavolo qua, ma stiamo scherzando? Loro un po' si infastidiscono e mentre se ne stanno andando un po' infastiditi notano che il cameriere sta chiamando una coppia perché il loro tavolo per due si è liberato, e vedono che questa coppia non risponde. A un certo punto si fingono questi, dicono: ah, siamo noi, è nostro il tavolo. Così, per fare un torto al locale, si prendono il tavolo abusivamente. Chiaramente questo causa uno scambio di persone. Quindi da lì si scatena. E da lì succede di tutto, succede. Ci sono di mezzo i boss mafiosi locali, che è interpretato da Ray Liotta, il boss mafioso grandissimo. Quindi molto, molto reale, esatto. Molto realistica come cosa. Ci sono i boss mafiosi locali, ci stanno le spie, ci sta di tutto. Però la cosa è molto godibile e molto carina, nonostante si percepisce che alcune battute non rendono perché l'adattamento un po' le svilisce. Come dicevo, il film ha un grande ritmo e alla fine è un po' meglio di, dei film del genere. Il regista è uno specialista di cose notturne, perché ha già fatto Notte al Museo 1 e Notte al Museo 2. E niente, ed è un film alla fine sì, carino, carino. Vabbè, Le Prince of Persia non l'hai visto ancora, vero? No, e sai che io credo proprio che non lo vedrò. Io pensavo che avrebbero fatto una proiezione, Prince of Persia adesso è il 19 maggio in Piano Festival di Cannes, e io pensavo che avrebbero fatto una proiezione prima del festival per tutti quelli che vanno al Festival di Cannes, non certo. Lo potranno vedere, e invece non c'è stata. E quindi? Che niente, non lo vedo. Cioè, tu hai sottolineato il fatto che andrai a Cannes. Tra l'altro, se qualcuno non lo sapesse, comunque mi troverà a Cannes dal 12 al 20. In al quale 21. Albergo scendi? Beh, non sta proprio a Can, eh. Non 20, è proprio lì. 20 miglia sta. No, non così lontano. A Orte, ma non così lontano. Sta a Juan-les-Pins. Ah, Juan-les-Pins, figo. Non è neanche un albergo, ovviamente. È un appartamento che condivido con altri 23, no? con altri come te. Con altri tre professionisti serissimi del settore come me. Ah. Per la modica cifra, una modica cifra. E, insomma, comunque l'importante è che sarò a Cannes. Juan-les-Pins è molto divertente, eh? Sì? Sì. Ma credo che durante il periodo del festival tutto il divertimento lo sposta lì. No. Pure Juan-les-Pins ha voglia, mappa. Quindi se tornando mi viene, ho ancora voglia di... Caro mio. Vabbè, e invece dicevo, quindi Prince of Persia lo andrò a vedere al cinema con la brava gente, con il popolino, con i bravi cittadini. Esatto. Vabbè. Umili. Vabbè, ste puzzole. Puzzola alla riscossa. Allora, puzzola alla riscossa, da che voi penserete che è un titolo inventato, non esiste, in realtà è vero, esiste, esce questa settimana, è un film dall'ovvio target, diciamo, ad essere gentili, preadolescenziale, con Brendan Fraser, che è uno specialista di queste aperte virgolette, fregnacce, chiuse virgolette. Io mi aspettavo appunto un fregnaccione di quelli colossali, invece lo sai che è un film non male, calcolando il target, cioè un film per bambini. Sicuramente. Racconta, vi dico la trama in due parole. Racconta di lui, Brendan Fraser, che lavora per una compagnia spietata che vuole radere al suolo una foresta e farci un quartiere residenziale. Gli animali del luogo si ribellano e gli fanno mille scherzi divertentissimi, che li indurranno poi a non fare più i lavori. Gli animali innanzitutto sono animali veri, non sono cartoni animati. Certo, in certi punti c'è la computer grafica che dà una mano, che gli fa fare. Però in linea massima sono animali ammaestrati, che è una cosa sempre pregevole in un film, cioè che ci sia l'animale vero. Le gag, che sono per lo più gag, come si dice, slapstick, quelle dell'oggetto tirato, la botola che si apre. Le cacciarunate proprio. Esatto, fracassone. Ammetto che in certi punti sono divertenti. Sono fatte bene, devo dire, mi sono anche divertito. Ma soprattutto la cosa veramente... Perché tu sei un animo semplice. Anche così è vero, io mi connetto subito con la gente semplice come me. No, ma la cosa è, a parte gli scherzi, che ammetto che è molto interessante, fuori dai canoni di questo tipo di cinema, tra virgolette, per famiglie, che poi quando si dice cinema per famiglie è cinema per bambini in realtà, è che solitamente in questi film le figure autoritarie, che vanno dal poliziotto ma anche alla maestra, perché sono figure autoritarie viste dagli occhi di un bambino, quindi che ne so, anche una segretaria, una bibliotecaria, un anziano anche, una figura autoritaria, sono sempre dipinte con molta deferenza, nel senso che si fa tutta una politica didattico-didascalica per i quali ai bambini si insegna che bisogna avere rispetto degli anziani, rispetto di qua, rispetto di là, rispetto poi a prioriste, rispetto di che, cioè a prioristico senza che qualcuno se lo meriti. Invece questo film, che sembra proprio venire dopo i Simpson, dopo quel tipo di umorismo, ride degli anziani, ride della polizia, ride delle forze dell'ordine, ride di tutto quello di cui di solito si tende ad aver, come dicevo prima, deferenza in questo tipo di storie, e il che già è molto pregevole. In più, sempre col tono della commedia e senza dipinge malissimo la gente, cioè la gente come aggregato, la massa. Quando solitamente, in questi film solitamente, quando a un certo punto il buono si converte, no? Dice no, è giusto, dobbiamo salvare la foresta, e c'è invece il grande capo della multinazionale che è cattivo e tutto quanto, e che invece vuole per soldi radere al suolo, alla fine la gente è con lui, perché? Perché il bene trionfa. Invece in questo film la gente sta col quello della multinazionale perché gli promette i soldi, e quando vedono i soldi vanno subito con quello che glieli promette, che è una cosa più rispettosa della realtà, ugualmente poi divertente all'interno della trama, perché sempre, come dicevo, è sempre all'interno di una certa leggerezza, e insomma sì, veramente anticonvenzionale, più divertente del solito nettamente. Va bene, altri films? Altri films che escono questa settimana. Oh, esce un film veramente strano. Non vi dico andatevelo a vedere perché no, magari, anche anzi vi dico proprio no, ve lo dico, che si chiama Christine Cristina, è il primo film da regista di Stefania Sandrelli. È un film francamente dimenticabile, è veramente un film diretto senza un'idea di regia, puntando le telecamere sugli attori, che racconta una storia medievale in cui recita la figlia di Stefania Sandrelli, cioè Amanda Sandrelli, c'è Alessandro Haber, insomma una serie di amici di Stefania Sandrelli che si prestano a questa cosa. Insomma, un film francamente dimenticabile che tuttavia, ecco, per queste cose stranissime italiane, ce l'hai proprio, oggi proprio tuttavia. Per queste cose stranissime italiane ha degli effetti speciali incredibili. Effetti speciali? Sì, perché è un film di ambientazione medievale, quindi i fondali, molte cose sono finti, ricostruiti al digitale, benissimo. Ma benissimo in una maniera che in Italia solitamente non si fa. Allora, questo film fu presentato al Festival del Film di Roma, quindi l'ho visto tantissimo tempo fa. Talmente tanto tempo fa che ho avuto modo anche di parlare con chi gli effetti speciali l'ha fatti, perché li ho incontrati in un evento, penso, non sto qui a raccontare. E mi ero complimentato con loro perché in questo evento a cui avevo partecipato avevano mostrato proprio come avevano lavorato. E di tante cose, io poi, magari gli ascoltatori non sanno, io sì, lavoro come giornalista cinematografico, ma spesso mi occupo in maniera specifica degli effetti speciali, come specializzazione, per cui sono abbastanza, tra virgolette, smaliziato. E il fatto che io non mi fossi accorto che in questo film c'erano degli effetti speciali mi aveva atterrito, perché teoricamente ho un occhio più o meno allenato a queste cose. Sei scappato, va. Esatto, scappato. Ci sono delle porcate ogni tanto, alcune ce ne sono, ma in linea di massima no. E mi ero complimentato con questa società italiana che fa gli effetti speciali. Ho detto: mazza, complimenti, io non avevo mai visto una cosa del genere fatta in Italia. Loro si sono presi i complimenti, hanno detto: sì, siamo stati bravi, ma onestamente hanno anche aggiunto: non siamo i soli in grado di fare queste cose. La cosa che ha fatto veramente la differenza è che siamo stati, contrariamente a quello che succede di solito nei film italiani, siamo stati chiamati prima che iniziassero le riprese, come si fa di solito. Cioè, sono venuti da noi e ci hanno chiesto: dobbiamo fare questa scena con questi effetti speciali, come la facciamo? Invece solitamente in Italia non funziona così. Funziona che la fanno e poi ti chiedono: metti una pezza agli errori che abbiamo fatto, e viene male, chiaramente. Invece in America anche funziona così: si prepara la scena e si decide il set, si decide cosa fare di accordo con chi farà gli effetti speciali dopo, in modo che il lavoro possa essere fatto bene, che non ci siano problemi, insomma, che tutto venga a regola d'arte, come si dice. Per cui c'è questa cosa stranissima di questo film povero, tra l'altro, come un film a budget bassissimo, con degli effetti speciali perfetti. Bene. Allora, ti volevo chiedere una cosa, ma l'ho dimenticata, caro mio. Ecco, vedi. Ah, no, ecco, ho visto oggi, stamattina, ho visto il televisore a 3D. Ah, quello con o senza occhiali? Con occhiali. Sì. Perché esiste pure quello senza? No, ne esistono dei prototipi, ma funzionano malissimo. Ah, no, ho visto quello con occhiali. Ed è incredibile. Sì, però ho un problema. Ah, che tu l'hai visto in che condizioni di illuminazione? A giorno, con la luce del sole che entrava? No, con i tubi al neon. Ah, perché ha dei problemi con la luce del sole. Cioè, tu se stai di pomeriggio, hai 3 di pomeriggio a casa tua, non vedi bene. Capito? No, io per l'effetto 3D ci deve essere un'illuminazione particolare, che è un po' un problema per il fatto che debba entrare nelle case. No, l'ho visto proprio in un centro commerciale, erano tutti i tubi illuminazione. No, però la tecnologia funziona, ma assolutamente. Benissimo, sì, sì, benissimo, sì. Cioè, si vede benissimo. Prezzo non te lo voglio chiedere. 2000 euro. Ma manco troppo, io sapevo che costavano di più. No, 2000 euro. Poi parliamo di un 52 pollici, E più sono grandi, più funziona meglio l'effetto, però. Ma è veramente, non pensavo. No, una tecnologia. Per curiosità, stavo comprando delle spine a pipa. Gli occhiali erano quelli leggeri, no? Quelli tutti neri, molto leggeri, poco pesanti, no? Sì. Compravo delle spine a pipa che non ho trovato neanche lì. Passavo, ho visto un signore che guardava gli occhialetti. Faccio, ma fammi vedere che bufala è. Li ho messi e invece si vedeva benissimo, proprio incredibile. Il problema sarà il lettore DVD. I contenuti, allora io so, questa non ve la do come informazione sicura, perché dovevo ancora verificarla, non pensavo che ne avremmo parlato oggi, che Sky non ha preso i diritti per i mondiali 3D. Quindi Sky non trasmetterà i mondiali in 3D. Al cinema mi dicono hanno fatto vedere la partita, esatto. Roma-Inter in 3D. Esatto. Quindi Sky non trasmetterà i mondiali in 3D, benché i mondiali verranno ripresi in 3D. Comunque ci saranno le riprese, però Sky lo ritiene un investimento non valevole perché non ci sono sufficienti televisori, non gli conviene. Però le partite andranno nei cinema in 3D, ed è stata fatta una prova con Roma Inter nei circuito The Space, che è, The Space fonde l'ex circuito Warner, il Warner Village, con il circuito Medusa, in sostanza. Quindi è il vecchio Warner di Parco dei Medici o il Warner moderno di Piazza della Repubblica, sono The Space. Hanno fatto questa prova, hanno mandato Roma Inter, io non ci sono potuto andare, ma c'è andato un mio uomo di fiducia, il quale mi ha detto quello che un po' già sapevo, che la proiezione funziona bene, è tutto perfetto, non ci sono problemi, è fantastico. Le cose sono due, gli unici problemi, diciamo, però sono caratteristici dell'idea di riprendere una partita. A, non esiste lo zoom, perché se tu zoomi devi anche aggiustare il 3D, e se lo fai in diretta live non puoi farlo, cioè non si può fare live, dovresti preparare tutta la scena come si fa al cinema, preparo tutta la scena, so che zoomerò, quindi so che l'effetto 3D dovrà spostarsi di questo adesso non so l'unità di misura, comunque dovrà spostarsi tutto quanto, e farlo live non si può, quindi le inquadrature sono tutte fisse, magari anche vicine ma fisse. Non è una ripresa, no, non è solo da lontano, no, magari sono anche vicine, però non possono andare avanti e indietro. E secondo, quello che succede in una partita di calcio è che l'80% delle inquadrature, ma forse anche il 90%, sono da lontano, sono quelle del campo grosso da lontano, e lì si sente poco il 3D. Questo mio inviato mi diceva che è molto sensibile l'effetto quando inquadri il pubblico, le gradinate, perché si vede tutta la gradinata fino in alto, si percepisce bene la profondità e tutto quanto, però è più inutile chiaramente, perché quello che voglio dire è la partita. Quindi sul campo non è molto no, poi ci sta qualche molto... replay bello, ci sta qualche replay interessante, però poi è poco in effetti quello che vedi di replay rispetto a quello che vedi di giocato da lontano, e quindi giocato da lontano non dà l'effetto 3D. No, perché è più piatto essendo molto lontano, poi comunque non c'è il primo e il secondo piano, cioè il giocatore è vicino al terreno, non so come dire, alla fine non... ma soprattutto la cosa che tendiamo a sottovalutare, e che mi ha fatto notare questo ragazzo che è andato, che in effetti uno non ci pone l'attenzione finché non ci vai, è che stai in una sala con altre persone che tifano in una maniera endemoniata, che è una cosa che a lui un po', a un certo punto, lui non è né della Roma né dell'Inter, per cui non era coinvolto emotivamente nella partita. È rimasto terrorizzato. A un certo punto sì, era una partita anche non facile, diciamo, forse non era la più adatta a posteriori. È rimasto insomma un po' atterrito, cioè io sono in un luogo chiuso, non è preparato, cioè non sono pronto a fuggire da qua, insomma era un po'... però se sono le partite dell'Italia non ci dovrebbero essere troppi problemi, e io sicuramente lo proverò durante i mondiali, voglio proprio vedere. Andremo insieme. Ma andremo a vedere quelle cose tipo Argentina-Turchia, quelle partite così. Camerun, resto del mondo. Vabbè, insomma, altri film, perché abbiamo pochi minuti, poi arriva Mario Tagliaferri a tenervi compagnia. Gli tiro la volata. Non ho visto, perché lo vedrò a Cannes, Dracula, che esce questa settimana, però io non sono potuto andare all'anteprima italiana, dovrò andare a quella a Cannes. Hai avuto... Mi hanno detto che non è male, mi hanno detto che più o meno ha un po' meno del solito, ma ha i difetti di Sabina Guzzanti. Dracula è il documentario che ha fatto Sabina Guzzanti sui fatti di L'Aquila, dopo il terremoto, i problemi della ricostruzione, tutto quanto. Ha un po' i problemi di Sabina Guzzanti, cioè una certa faziosità esasperata, ma meno del solito. Ma mi hanno detto che non è male, però, come documentario, è una cosa interessante da vedere. Però appunto non l'ho visto. La cosa che ho visto invece è un esordio italiano. Si chiama Due vite per caso. È un'opera prima di un regista italiano. Ci sta Lorenzo Balducci e Isabella Aragonese. Isabella Aragonese è discretamente famosa, è quella che ha fatto Tutta la vita davanti, per dire, ha fatto anche 10 inverni. Ed è una storia interessante. Racconta di questo... Anzitutto funziona come il film Sliding Doors. Cioè ci sono un evento... il cambio in un evento determina due realtà diverse. Cioè in una realtà questo ragazzo fa un incidente con la macchina della polizia, cioè va a sbattere contro la macchina della polizia, e in un'altra sua vita non lo fa. E questo fatto di fare o non fare questo incidente chiaramente cambia tutto quanto. La cosa interessante del film è che facendo subito all'inizio del film questo incidente con la polizia si crea una situazione molto spiacevole, perché rimane vittima di quei casi in cui la polizia ti malmena senza che tu abbia fatto nulla. Quindi non solo viene malmenato da poliziotti in borghese, ma poi anche le istituzioni gli si rivoltano contro, cioè l'avvocato gli dice no, non gli possiamo nemmeno fare causa, anzi è un miracolo se non fanno causa loro a te, perché si sono fatti male menandoti, quelle cose così. E quindi si genera un tipo di personalità. Nell'altra lui addirittura entra nell'arma dei carabinieri, quindi diventa completamente diverso, diventa un'altra persona. E il film vuole parlare molto della rabbia giovanile, del tenersi tutto dentro e di come questa rabbia poi sia alimentata dal contesto sociale moderno, e quindi c'è anche il precariato, non c'è solo il precariato, ma anche il precariato, anche un certo tipo di vita, un certo tipo di cose che ci succedono intorno, senza anticiparvi quello che succede nel film. Però ha un difetto, ha due difetti fortissimi. Uno, che alla fine purtroppo si riduce solamente a manifestanti buoni contro poliziotti cattivi, che è una cosa francamente che io speravo avessimo superato nel nostro cinema, cioè una divisione esagerata che non rende conto della complessità delle cose reali e che io non vorrei più vedere al cinema. E due, è che è proprio un esordio, cioè è proprio il primo film di, adesso io non conosco il regista, ma quello che sembra dal film è che sia un grande appassionato di cinema, un grande amante, e questa cosa si riversa molto in questo film. Questo film ha delle aspirazioni esagerate, è pieno zeppo di citazioni esagerate. A un certo punto addirittura c'è nel film un professore di filmologia che spiega per filo e per segno il finale dei 400 colpi, che è un bellissimo film di Truffaut, perché è bellissimo quel finale, perché è fondamentale tutto quanto, e poi alla fine succederà qualcosa di simile a quel finale lì, per cui è come se il film si legittimasse da solo, è come se dicesse, come se ci spiegasse perché è intellettuale. E appunto questa spinta ad essere intellettuale a tutti i costi un po' lo affossa, e lo si intenda come una lode, il film non ne avrebbe bisogno, perché ha di sua una forza intellettuale secondo me sufficiente. Bene, qui mi dicono saluto che Joan Le Pen ci ha abitato per 4 anni. Ah, Luca, te la saluterò senz'altro, Luca. Vasquez mi avevi consigliato Cella 211, per me sta a livelli del film di Van Damme. No, male che me lo sono scaricato. Scaricato? No, a parte che è una vergogna. Che vuol scaricare? Dire scaricare? Una vergogna. Ma no, dai. Non è assolutamente a livelli di film di Van Damme, no, no. Sono 15 giorni e cerchi le spine a pipa. Non lo trovo. Non lo trovo. Avete parlato di Aiuto Vampiro? Sì, abbiamo detto che io non l'ho potuto vedere perché non è stato presentato alla stampa, e sarà anche difficile vederlo perché uscirà in poche sale. Danilo, grazie, ma conosciamo bene Spinosa.it. Sì, conosciamo benissimo, voglia, ne parliamo spesso e volentieri. Per chiudere Robin Hood esce mercoledì, non esce di venerdì. Sì, e io ne posso parlare solo, cioè ne posso parlare dal giorno in cui esce. Ah, è una cosa incredibile. Vabbè, non posso dire. Una cosa posso chiedere? Vediamo. Non è in 3D? Non è in 3D. Ci sono effetti speciali? Moderati, diciamo meno che nel Gladiatore. Comunque è una ricostruzione storica di periodo, non c'è niente di eccezionale. Il Gladiatore dovevi ricostruire tutta Roma, lì è sono dei villaggi, castelli, che so, che roba che c'è, insomma, sì. Nulla di trascendentale. Però vi posso dire una cosa, perché ho visto che poi sono usciti degli articoli di carattere giornalistico, quindi non critico, ma giornalistico. Cioè la differenza è che racconto da fredda cronaca alcuni elementi che si possono dire, certo non il finale ovviamente, però alcuni elementi che si possono dire. La cosa che possiamo dire, il finale di Robin Hood lo conoscono tutti? No, perché questo film lo approccia da un'ottica particolare, ma la cosa che si può dire che è interessante, che può essere comunque a prescindere dal valore del film, è che siccome tutti fanno il paragone col Gladiatore, perché è lo stesso regista del Gladiatore e Russell Crowe lo stesso attore, per cui è chiaro che si fa questo paragone, poi c'è la figura forte che uno dalla parte del Robin Hood, dalla parte del Gladiatore, quindi il paragone viene. La cosa che si può dire di interessante è che nel Gladiatore, lo ricordate, lui è il capitano il generale dell'esercito, e cade in disgrazia, lo fanno cadere in disgrazia e diventa l'ultimo anello il Gladiatore e tenta di risalire. Qua invece accade il contrario, perché lui si sa che parte arciere dell'esercito e si ritrova da un'altra parte. E quindi, se non altro, l'elemento di interesse c'è. Poi, per la riuscita o meno del film, ne parleremo. Staremo a vedere, ma non ne potrò parlare. Televisione, prego. La televisione, mi hai aperto 5 secondi fa. Televisione, poi pretende pure. Ma scusa, ma preparala a casa, no? Ma non sono stato a casa, sto in giro a fare cose. Vabbè, ma a vedere tutta gente. La settimana. Tutta la settimana. Mannaggia. Vabbè, altre cose che volevi segnalare? Altre cose che volevo segnalare, settimana prossima. Tanto io poi non ci sarò per 2 settimane, perché sarò. Ah, perché dove vai? Se ancora non lo avete capito, sarò a Cannes le prossime settimane. Per cui non ci sarò. E vi posso. Due settimane? Sì, cioè in realtà no, però il sabato che, cioè il venerdì ancora dopo, il 21 maggio sto tornando, quindi comunque non sarò qui. Ti chiameremo da Cannes comunque. Basta che pago io, basta che pago io. Giano, però se ti chiamiamo paghi anche tu. Forse da fisso no, mi devo informare, di questa cosa mi devo informare. E insomma, vi posso consigliare già da ora che usciranno nelle prossime settimane di sicuro Final Destination 3D, che però vi deve piacere il genere, cioè filmaccio serie C ma divertente, squartamenti, sangue, poi c'è un 3D di quelli che escono fuori dallo schermo che ti vengono incontro, insomma divertente nel senso sanguinolento del termine. Film belli non ne vedo perché non c'è 007, non... Guarda, forse lo è Prince of Persia, chi lo sa, io un po' ci spero, perché il regista di Prince of Persia era quello che diresse il primo film della Maledizione della Prima Luna, I Pirati dei Caraibi, che era un bel film d'avventura, che quindi è il più bello dei due. Esatto, assoluta, ma proprio di gran lunga anche. Sì, sì. Ed esce 14 maggio, cioè venerdì prossimo, Shadow è un... Ma è 3D Prince of Persia? No, Shadow è davvero un buon film dell'orrore italiano. È una cosa che mi sorprendo io stesso a usare queste parole. Addirittura. Non solo, ne avevamo già parlato, ed è di Federico Zampaglione, cosa ancora più strana di tutto. Il cantante? Strana. Esatto. Il simpatico cantante. Una cosa stranissima, veramente curiosa. E, sembra veramente un film italiano degli anni 70, horror anni 70, perché è girato in America sembrando americano. In realtà non è girato in America, è girato sempre qui in Europa. Però sembra americano, l'ambientazione sembra americana, gli attori sono stranieri, la troupe è tutta italiana, però gli attori sono stranieri e fa quelle operazioni appunto che si facevano negli anni 70 di far finta che... Ed ha un piglio originale, è fatto in maniera veramente professionale, cioè quelle cose che solitamente si condannano, no? Gli horror italiani, che non sono professionali, che non sono credibili, che non c'hanno quella cura, e invece ce l'ha tutte queste. Secondo me ha veramente il problema che a un certo punto, proprio il finale, l'ultima cosa, il finale ti cascano le braccia, dici ma perché hai rovinato tutto ora, proprio ora nel finale hai rovinato tutto. Però io ci passo sopra. Facciamoglielo rifare. Esatto, un director's cut. Io ci passo sopra a questo finalaccio perché sono talmente sorpreso dalla cura, dalla maestria con cui è confezionato. Ci sono delle sequenze di suspense fatte veramente bene. A un certo punto una scena di tortura molto bella. Poi sai, sono cose che da film horror, da appassionati di film horror, una scena di tortura con delle idee, cose non banali. Veramente. Dura 80 minuti. Che è la durata giusta del film horror, tra 80 e 90 deve durare. E per cui se siete appassionati dell'horror, andateci, non fatevi fermare fatto che è italiano ed è diretto da Zampaglione. Beh, noi abbiamo avuto dei maestri del film horror, i veri maestri, però assoluto. Ultimamente no. No, cui, Dario Argento ha fatto insomma dei purtroppo, film sì. Imbarazzanti, sai se farà qualche altra cosa? So che sta avendo delle difficoltà infinite per alcuni suoi ultimi lavori e viene quasi da dire forse è meglio così, perché a un certo punto peccato. Vabbè, filmoni non ne escono proprio fino a giugno oramai. No, perché adesso ci deve essere, vabbè, il filmone che esce è Robin Hood, però adesso ci deve essere Cannes e poi si ricomincia a giugno, sì. Si comincia a giugno che escerà Sex and the City 2, comunque sarà un film grosso, sarà un'uscita molto grossa. Da Cinecomero? Ma non ne sento parlare ancora. Non ne sento parlare ancora del Cinecomero. Anche perché i Vanzina hanno fatto da poco un loro film, quello La vita è una cosa meravigliosa, che è uscito qualche settimana fa, per cui sono stati impegnati. Uscirà finalmente, è stato rinviato in eterno, uscirà Zombieland a giugno, che è un film molto carino, ne parleremo quando uscirà, è un film divertente. Cos'è? Benvenuti a Zombieland, è un film americano molto divertente, che in realtà in America è uscito credo un anno esatto fa, una cosa del genere è uscito, però è molto carino. Ed uscirà, vedo che è stato rinviato il film sulle team, ma so. Ah, in che altro? E poi niente, poi c'era Twilight, Toy Story, ma parliamo di luglio. Hai visto Iron Man 2? No, andrò. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo per quel che mi riguarda lunedì pomeriggio, stessa frequenza, stessa radio. Grazie Vasquez. È un piacere. Ricordatevi sempre che è una pietra che rotola, non raccoglie mai suo. Grazie, ciao a tutti. Ciao.